Savonarola, il frate che silenziò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari quando la Turchia era un sultanato islamico che aspirava alla laicità e guardava con ammirazione a quel che in Occidente entusiasticamente chiamavamo progresso, e lette da me quando la Turchia è una repubblica laica che rimpiange l'islamicità e guarda con perplessità a quel che in Occidente ci ostiniamo entusiasticamente a chiamare progresso. D'altra parte, martello d'oro non rompe le porte del cielo e ricorda: non ti lasciar condurre al passo estremo che molti ne ha ingannati il ben faremo. Serio, capitolo 25, proposta indecente. L'agitazione del Savonarola in quei mesi di silenzio e di salute ancora malferma dovette però essere grandissima. Egli si vedeva tirato a combattere con Roma per difendere la sua dottrina da accuse evidentemente calunniose e per difendere la sua vita da quelle insidie di cui l'odio di parte circondavalo. E nel pensare a difendere la sua persona, egli doveva trascurare quella riforma politica che tanto bene s'era avviata e quella riforma di costumi che aveva già dato così felici risultati. Né altro i suoi nemici desideravano. Le accuse di eretico, di seminatore di scandali, di seduttore del popolo e via discorrendo non erano credute da coloro stessi che le facevano. Il Papa non trovava nulla a ridire sulla dottrina del frate, ma esso gli faceva, insieme con gli arrabbiati e col Moro, una guerra tutta politica, nella quale si cercava di spegnere in lui il suo partito. Fino a che la lotta s'era manifestata qual essa era veramente, ristretta cioè nella politica, il Savonarola aveva sempre tenuto la fronte altissima. Ma ora il terreno mutavasi, da che si cercava astutamente di nascondere la lotta politica sotto una disputa religiosa, ed egli vedeva tutta la grave e pericolosa difficoltà della nuova posizione. Se fosse stata davvero una questione di dogma, avrebbe potuto sottometterla all'autorità della Chiesa, ma il Papa non faceva che chiamarlo in generale seminatore di falsa dottrina ed imporgli silenzio. Trattavasi adunque o di abbandonare il popolo per obbedire ai comandi di uno che evidentemente non aveva altro fine se non quello di distruggere la libertà fiorentina, o di resistere all'autorità del pontefice, portare la propria causa innanzi al pubblico e così seminare scandali e discordie nella Chiesa. Egli fu rattristato di molto dolore, ma non esitò un momento a tacersi, aspettando che i magistrati e i cardinali amici avessero tentato piegare di nuovo alla benignità l'animo del Borgia. E dalle lettere che il Savonarola scrisse in quel tempo noi vediamo che egli era fermissimamente deciso a non risalire sul Pergamo senza ottenerne da Roma il permesso. Ma se egli si tacque, non perciò dubitava della giustizia della sua causa. Egli non credeva punto validi quei comandi venuti per fini politici, mossi da informazioni false e calunniose dei suoi nemici. Anzi, in quel tempo appunto cominciava a pigliare nel suo animo sempre maggiore consistenza il pensiero di trovare un modo onde mettere fine ai mali che tanto travagliavano la Chiesa. Era allora presso molti buoni e valenti cattolici sparsa l'opinione che la elezione del Borgia, così patentemente simoniaca, fosse nulla, e che il solo modo di rimediare ai tanti scandali da lui cagionati fosse il radunare un concilio per deporlo. Alla testa di tutti costoro s'era messo quel bellicoso cardinale di San Piero in Vincola che fu poi Papa Giulio II. Egli chiamava il Borgia marrano ed eretico e stava di continuo ai fianchi del re Carlo per sollecitarlo a radunare il concilio onde riformare la Chiesa. Né il re si mostrava da ciò punto alieno, anzi lo stesso Comines, suo ambasciatore, ci ripete più volte: manco poco che non si venisse al fatto di questa riforma. Quando i francesi passarono la prima volta per Roma, non meno di 18 cardinali si erano stretti, insieme con quello di San Piero in Vincola, intorno al re per sollecitarlo istantemente a dare opera alla desiderata riforma. E due volte furono puntati i cannoni a Castel Sant'Angelo per impadronirsi della persona di Alessandro e raccogliere violentemente il concilio. Ma di poi, restando il re sempre più dubitoso, quanto più si avvicinava a una risoluzione, prevalsero i consigli di quel brissonetto che tanto dominava sull'animo di Carlo e tanti favori e danari aveva dal Papa ricevuti. Fra quelli che sollecitavano il concilio e la riforma, il Savonarola era certamente dei più caldi, e se aveva qualche volta esitato a spingere le cose per il timore di mettere scandali in quella chiesa, la cui unione gli era sopra ogni cosa carissima, la condotta del Papa veniva ora a togliere ogni esitazione dall'animo suo. Egli sapeva d'altronde d'avere un valido appoggio nel cardinale di San Piero in Vincola, onde, sebbene la prudenza non gli permettesse parlare sul Pergamo di tali materie, non tralasciava di sollecitare il re Carlo con lettere continue, che ora divenivano assai più del solito numerose e stringenti. «Rammentatevi», egli dice al re, «che io ho già tante volte annunziata la vostra venuta in Italia quando nessuno ci pensava, ho predetta la vostra fortuna e i vostri pericoli, ma più gravi saranno le punizioni se ora non tornate alla buona via». Il caso volle che in questi giorni appunto morisse il Delfino di Francia con dolore grandissimo del re, il quale così sempre più si andava persuadendo della verità di ciò che il Savonarola gli profetizzava. Tutto questo però non bastava ancora a farlo uscire da quella sua eterna irresolutezza con cui sembrava destinato a scontentare ognuno. In questo mezzo cominciava a rimettersi la salute del Savonarola e il bisogno d'attività rinasceva in lui più forte. Ma che fare? Ritornare sul Pergamo senza il permesso di Roma non voleva, e nel dirigere le prediche di Fra Domenico non poteva sperare quei grandi risultati che aveva ottenuti con le sue. Pure il Savonarola era uomo che trovava sempre modo a fare il bene, e quando non poteva il molto contentavasi del poco. In quei giorni si avvicinava il carnevale dell'anno 1496 e gli arrabbiati, ora che il frate taceva, s'apparecchiavano a celebrarlo come a tempo dei medici, per dare sfogo a quelle sfrenate passioni, a quegli osceni sollazzi che erano stati per loro troppo lungamente repressi. E il frate si propose invece di impedirlo. L'impresa però non era facile quanto a primo aspetto si sarebbe creduto. I fiorentini erano stati sempre vaghissimi di quelle feste carnovalesche e venuti poi i medici s'erano abbandonati a quegli eccessi con una sfrenatezza non facilmente credibile. La città intera diveniva in quei giorni un'orgia, ognuno s'abbandonava al vino e alla crapula, il pubblico decoro veniva affatto dimenticato. Con le prediche del Savonarola è ben vero le cose cambiarono molto, ma certe usanze del carnevale s'erano così profondamente radicate che nella nuova dottrina, nelle mutate leggi, né i magistrati con severissimi bandi avevano mai potuto distruggerle. E come è ben naturale, quelli che più affezione avevano per quelle feste erano i fanciulli. In quei giorni essi usavano di fermare continuamente la gente per via, chiudendo loro il cammino con certi lunghi pali che non venivano rimossi se prima essi non avevano ricevuta qualche moneta, per far poi la sera i loro pazzi desinari, dopo dei quali accendevano grandi fuochi nelle piazze, vi ballavano e cantavano intorno e finalmente facevano i sassi con tanta violenza che ogni anno più d'uno di loro restava morto per le vie. Fu più volte proibito questo pazzo e bestiale gioco dei sassi, furono minacciate pene severissime, ma tutto era inutile. I più savi cittadini, gli otto, la signoria stessa vi s'erano invano adoperati. La sera i fanciulli si trovavano in modo eccitati dal baccano di tutto il giorno che non v'era pena che li spaventasse. Si pose finalmente a quest'opera il Savonarola. Dopo avere negli anni passati condotto a così prospero successo la riforma politica e la riforma dei costumi, ora che le mutate condizioni gli impedivano di condurre innanzi opere di sì grave momento, immaginò questa terza e più modesta riforma, che chiamò la riforma dei fanciulli. Egli comprese che sarebbe stato assai difficile distruggere affatto le vecchie usanze. Decise quindi di mutarle sostituendo alle feste carnascialesche delle feste religiose. Su quelle medesime cantonate, adunque, dove i fanciulli si raccoglievano a chieder danari per le loro cene, fece costruire piccoli altari, innanzi ai quali dovevano pure stare i fanciulli a chiedere danari, ma invece di spenderli in gozzoviglie dovevano darli ai poveri. «Si canti pure», egli disse, «ma in luogo di oscene canzoni siano inni e laudi spirituali». Ed egli medesimo volle comporne alcune, tornando così alla poesia da tanti anni abbandonata. Altre ne fece comporre dal poeta Girolamo Benivieni. E perché queste cose seguissero con maggior ordine, fece da Fra Domenico radunare i fanciulli ed eleggere fra loro stessi dei capi, alcuni dei quali si presentarono alla signoria ed esposero il fine e l'ordine della loro riforma. Avuta nell'approvazione, quei fanciulli, tutti pieni della nuova importanza per loro acquistata, si misero volenterosi all'opera. Invero, neppure in quel carnevale la città fu molto tranquilla, né per le vie si poteva camminare molto liberi, ma quella importunità dei fanciulli non era nuova, nuovo era il fine di carità a cui era stata dal Savonarola indirizzata. E così l'anno 1496 si vide per la prima volta abbandonato il gioco dei sassi, abbandonate le smoderate cene e 300 ducati furono raccolti per darli via ai poveri. L'ultimo giorno di carnevale fu poi fatta una solenne processione alla quale assisteva, per la novità del caso, l'intero popolo. Andarono i fanciulli cantando inni religiosi e visitando le principali chiese della città, dopodiché depositarono i danari raccolti nelle mani dei buoni uomini di San Martino, a ciò li distribuissero ai poveri vergognosi. Alcuni mormorarono contro questa cosa, perché mormoravano sempre contro ogni buona opera che venisse dal Savonarola, ma la generalità dei cittadini e degli uomini da bene disse che anche questa volta il frate aveva saputo fare quel che non era riuscito ad alcun altro in Firenze. In questo mezzo, i Dieci della Guerra, che nel nuovo governo si chiamavano Dieci di Libertà e Pace, essendosi mantenuti sempre amici del Savonarola, s'erano efficacemente adoperati perché il Papa gli concedesse licenza di predicare la Quaresima. Ne avevano scritte lettere continue a molti cardinali e all'ambasciatore Messer Ricciardo Becchi. Ed infatti pare che con l'aiuto del cardinal di Napoli e di quello di Lisbona si riuscisse a piegare almeno in parte l'animo del Papa, giacché se non si ebbe un nuovo breve che rivocasse quello di sospensione, fu per mezzo di un cardinale rimesso al Savonarola all'arbitrio del predicare. Un altro fatto, il quale merita di essere particolarmente considerato, pare che avesse luogo appunto in questi giorni medesimi, sebbene la data non ci venga con precisione indicata dai molti storici che lo raccontano. Avendo il Papa rimesso le prediche del Savonarola ad un dotto vescovo domenicano perché cercasse se vi era materia di condanna, questi, dopo averle esaminate, ritornava col volume in mano dicendo: «Santo padre, questo frate dice tutte cose savie, tutte oneste. Esso parla contro la simonia e contro la corruzione dei preti, che pure è grandissima. Egli rispetta i dommi e l'autorità della Chiesa, onde io cercherei piuttosto farmelo amico, offerendogli, quando fosse necessario, anche la porpora cardinalizia». Sia che il Papa cominciasse ora a temere del frate e non volesse altro che farlo tacere, sia che pensasse tendergli qualche nuova rete, certo è che per mezzo di un domenicano a bella posta mandato da Roma venne fatta al Savonarola l'offerta del cappello rosso, a patto però che gli avesse nelle sue prediche mutato linguaggio. Qual fosse la confusione della sua mente al sentire un'offerta così inaspettata, quanta l'indignazione del suo animo, non è facile descriverlo. Egli aveva ora in mano le prove visibili che a Roma facevasi mercato ad ogni cosa più sacra, e tanto fu la piena del suo sdegno che non seppe dare alcuna risposta, ma disse solo a colui che faceva la scandalosa proposta: «Venite alla mia prossima predica e voi udirete la risposta che mando a Roma».